canali e foreste. Volte in voi canali e foreste, tolle da queste. Tolle da queste care gioie, care paure, che si piace derive. Venga il tempo, venga il tempo, foreste, tolle da queste care gioie, care, care, e si piace, che piace le rive. Tolle da queste care gioie, care, care, e si piace, che piace le rive. Tolga queste care gioie, care, care, e si piace.